Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. In quel settembre del 1976 ero insieme ai miei amici nella squadra che al torneo serale doveva giocare contro la squadra che vinse il torneo primavera all'oratorio. Loro si chiamavano Cosmos, come la squadra di New York, nella quale nel 1975 arrivò Pelé. Noi invece CSKA. Ciao, sono Luigi, vivo a Monza. Ho 48 anni, sono sposato, ho due figlie, lavoro in banca e oggi non gioco più a calcio, ma lo guardo soltanto. Quarto rigore olandese, Bosvelt, la palla parata, finale, è finita, siamo in finale, tolto apparato anche su Bosvelt, incredibile, grande esultanza in campo, l'Italia è in finale, ha battuto ai rigori l'Olanda, incredibile esultanza, Italia in finale, Italia che affronterà la Francia per il titolo europeo, ai rigori finalmente ce l'abbiamo fatta. Sono le 16:09 a tutti, buongiorno in diretta dal flagship store di Corso Venezia numero 1 con un sacco di gente che si fa sentire, ovviamente applaudendo. Questo è sempre Voi siete qui, questa è sempre Radio 24, però per l'occasione oggi raccontiamo storie di calcio, ma per l'occasione oggi soprattutto abbiamo due ospiti d'eccezione. Uno avrete capito probabilmente dal file che abbiamo mandato audio in apertura. Abbiamo mandato quello, Francesco, perché cioè comunque tu rimani lì, rimani a parare quei rigori in Italia-Olanda. Francesco Toldo! Ciao, buongiorno a tutti, ciao, grazie. Cioè, ricordaci, loro sbagliano 5 rigori, di cui 3 parati da te. Ormai sono 14 anni fa, e hanno segnato un rigore su 6, faccio prima dire così. Ok, che lo segnò Kluivert. Certo, sei anche arrabbiato perché hai detto come, gli altri sbagliano, io segno. No. Francesco Toldo è qui con noi in questa puntata speciale, ma alla mia sinistra. Invece alla mia destra, non ci sono delle immagini, ma vi andate a vedere le foto sul sito o sul nostro profilo Facebook. Francesco non gioca più da 3 anni. Ma giusto? Anche di più, da 4 più tutti gli altri, okay. Di panchina, anche di più. E invece abbiamo un giocatore che ha giocato praticamente ieri, l'altro ieri, che è il difensore dell'Inter, quel, diciamo ormai inamovibile, che è Rolando. Ciao Rolando, buongiorno. Ciao, buongiorno. Grazie per essere qui. Rolando doveva solo fare un passaggio oggi e in realtà ha avuto voglia di fare 4 chiacchiere con noi. Diciamo, questa è una puntata che vista da lontano sembra per interisti duri. Invece no, è comunque un po' per tutti, giusto? Perché appunto Francesco è stato nazionale per anni, certo. Rolando è nazionale portoghese. Prima mi raccontavi che in realtà sei di Capo Verde. Sì, sono nato a Capo Verde, dopo a 15 anni sono andato a Portogallo per fare la scuola, ma... Cioè, tua nonna pensava che tu facessi la scuola, mi dicevi. Sì, perché lei mi ha detto solo te lascio andare se per fare la scuola. E io, ok, va bene, faccio la scuola, ma dovrei fare sempre il calcio perché è quello che so fare, mi piace tanto. Ma e l'hai finita poi la scuola? Sì, ha finito okay, la scuola. Ok, quindi la nonna è tranquilla. Quella, sì. 349-238-6666. Oggi raccontiamo appunto storie legate al calcio. Raccontiamo una storia. Noi continuiamo a fare sempre quello che facciamo tutti i giorni. Raccontiamo la storia di Luigi, che ha a che fare con un pezzo molto importante del giocare a calcio. Io ho giocato poco e male, però il mio allenatore mi diceva sempre, come diceva lui, io facevo il difensore, e mi diceva devi sempre anticipare l'avversario. Francesco, sta roba vale anche un pochettino anche per il portiere? Beh, certamente è una qualità, non sempre l'anticipo è la cosa giusta, però se gli ha dato questo consiglio evidentemente aveva delle carenze questo signor Luigi. Ah ok, tu dici, guarda dal suo racconto sembra un'altra cosa, sembra che quella fosse l'unica cosa che lui poteva fare, essendo piccolo e magrino. Francesco, prima di cominciare, c'è una roba che a me è rimasta in mente da... hai presente Fuga per la vittoria? Certo. Quando Silvestre Stallone gioca come portiere nella squadra dei carcerati, lui non l'ha mai fatto il portiere, e a un certo punto chiede all'allenatore: ma sui calci d'angolo dove mi devo mettere? E l'allenatore non gli risponde: dove ci si mette sui calci d'angolo? Sai che non lo so. Francesco Toldo in diretta, a Voi siete qui. Non sa, cioè si mette al limite dell'area piccola, sta al centro. L'importante è che la palla non entri. Okay. Mettiti dove vuoi, ma basta che la palla non entri in rete. Tra l'altro, c'è una tecnica, c'è una tecnica. Chiaro, e qual è? Stiamo scherzando. Qual è? Ma no, dipende se calcia ad uscire, a rientrare. e studi le potenzialità dell'avversario, quindi... Vabbè, stai girando un po' intorno. No, no, no, cioè, mettiti in mezzo, okay. Mettiti in mezzo. Conta un attimino da una parte all'altra e metti in mezzo. A proposito di mettersi in mezzo, Francesco, tu sei famoso, diciamo, per due cose. Una era quella con cui abbiamo aperto, l'altra è proprio nel cuore degli interisti, è il gol che tu fai alla Juve nel 2004 in un Inter-Juve che era 1-0, 0-1, certo, per la Juve, certo. E tu segni un gol che in realtà viene assegnato a Vieri. Com'è sta storia? Sì, nella finzione a Vieri, perché nella realtà era l'hai mio, fatto tu? Era mio, certo, ancora adesso è una leggenda quel gol. E Vieri l'ha preso perché lui doveva assolutamente vincere la classifica dei capocannonieri. Okay. Gliel'ho lasciato perché siamo buoni amici. Però dalle immagini si vede chiaramente che la tocchi tu per caso. Certo, appunto, dalle immagini. Però lui era indifferita, allora l'ha toccata alla fine. No, sto scherzando, comunque ci ho creduto in quel gol. Sei andato in mezzo anche in quel caso, era comunque un calcio d'angolo e sei andato era in mezzo. Era l'ultimo calcio d'angolo della partita, perdavamo 1-0, l'arbitro era Collina. E prima della gara disse a Cooper: se per caso dovessimo perdere 1-0 nella finale, c'è un calcio d'angolo, vado, non mi fermi, mister. Perché in quei casi il portiere parte, l'allenatore: no, dove fermati, vai, certo. Fermo, dove vai? E rimani a metà strada, magari. Ed è stato bello perché ci ho creduto fin dall'inizio. E ci hai creduto e ce lo ricordiamo tutti, soprattutto questa parte qua, diciamo la parte di qua dello stadio. Le 16:14 minuti in diretta, questa è Radio 24. Adesso lascio riposare un po' Francesco e Rolando qua di fianco a me e passiamo con quello che facciamo tutti i giorni, cioè con raccontare una storia. La storia che stiamo per sentire è la storia di Luigi e parla di anticipare. Era settembre. Aveva piovuto nel pomeriggio e l'erba era bellissima. Una sera perfetta, c'erano tutti. E poi c'era lui, Gianluca si chiamava. Alto, grosso, sembrava più grande dei nostri 10 anni. Avrebbe dovuto essere il nostro carnefice, ma non fu così. Io sono Luigi invece, in quel settembre del 76 ero insieme ai miei amici nella squadra che al torneo serale doveva giocare contro la squadra che vinse il torneo primavera dell'oratorio. Anno 76... Stavo per finire elementari, scuola elementare che ho fatto a Cernusco sul Naviglio, ero in una scuola a tempo pieno, una delle prime scuole sperimentali, quindi ero un bambino che viveva un'infanzia felice, anche un po' diversa da quella che vivono tutti gli altri bambini che andavano a una scuola normale. Loro avevano Gianluca, noi invece Davidino, che già nel nome testimoniava la differenza fisica rispetto al loro bomber. In porta per loro c'era Alessandro, il portiere della società di calcio della nostra città. Noi avevamo Giuseppe solo perché era il più alto. La partita si sarebbe giocata alle 21 con i riflettori, cosa per noi bambini incredibile. Una partita vera come quelle dei grandi sul campo bello dell'oratorio, quello con l'erba per intenderci. A preparare l'incontro ci pensò il signor Franco, il nostro allenatore. Professione parrucchiere, passione il calcio. Ricordo le infinite discussioni a tema Inter-Milan che si consumavano nella sua barberia. Il signor Franco ci dispensava consigli di saggezza calcistica degni dei migliori mister di allora. Primo, non prenderle. Su questa affermazione nacque la nostra inattesa vittoria. Arrivati quarti nel torneo primaverile, eravamo infatti la vittima predestinata nel torneo serale di settembre. Vi partecipavano infatti i primi 4 per giocarsi in scontri diretti il trofeo del serale. La prima partita ci vedeva direttamente impegnati contro i campioni in carica. Noi eravamo terrorizzati. Visto il sorteggio ci eravamo già scoraggiati, ma il signor Franco no, disse: fate come vi dico io e vedrete che vinceremo. Radunati nel campetto in fondo alla via, il nostro ritiro praticamente, il signor Franco dava incarichi, ruoli e istruzioni. È il mio turno, lo ascolto con attenzione perché io sono in difesa. Presto l'attenzione si trasforma in apprensione quando mi sento dire: tu marcherai Gianluca. Differenza fisica a suo favore almeno 20 centimetri a diversi chili, insomma uno scontro impari. Ma il signor Franco sapeva che sarebbe stato sì impari, ma a favore nostro. Ecco la strategia per non prenderle. La strategia era non fargliela prendere. Toccava a me questa delicata missione per la squadra. Dovevo impedire a Gianluca di toccare la palla per 2 tempi, 40 lunghissimi minuti. La parola d'ordine era anticipo. Il signor Franco aveva intuito le mie doti, agilità, velocità e una certa testardaggine. Obiettivo essere sempre davanti a lui, arrivare prima. Aveva smesso di piovere da poco, si giocava. Pronti, già vestiti nello spogliatoio, l'allenatore ci ricorda i compiti. Lanciate sempre in avanti, via la palla dall'area, passate a Davidino e tu Luigi ricordati l'anticipo. Inizia la partita, comincio a muovermi con lui. Eccola, stava arrivando, è la prima palla che viene verso di noi, dall'alto. Corro, calcolo il tempo ed ecco che arriva prima la palla. E via. bravo così. Sento l'urlo del signor Franco che mi incoraggia. Ho iniziato a giocare da bambino al campetto in fondo alla via, ho fatto tutti i ruoli, sono partito all'attacco, sono passato al centrocampo e ho chiuso in difesa. Forse perché sono uno che, come racconto la mia storia, marcava stretto e giocava d'anticipo. Oggi non gioco più a pallone. Da tempo altri sport si sono affacciati nella mia vita e il calcio è solo un divertimento da spettatore. Ma la partita, quella partita, la ricordo ancora perfettamente. Gianluca non toccò palla. Davidino segnò e noi passammo il turno. Come andò poi non lo ricordo. Forse lo ricorda il signor Franco, lui parrucchiere venuto dal sud. In quegli anni forse poteva essere uno di quelli meno forti. E la sua fortuna fu l'anticipo. Apre per primo nel mio quartiere, il suo negozio taglia capelli a tutti, a quelle centinaia di persone che cominciano ad abitare le nuove case che crescono come funghi in quegli anni 60 che videro riempirsi di nuovo le vite, le strade, i campi e gli oratori. Oggi ogni tanto taglia ancora i capelli a mio padre, entrambi ultra settantenni, parlano ancora di Inter e di Milan. Ricorda senz'altro quando 40 anni prima allenava i bambini a giocare d'anticipo, li allenava per la vita e forse non lo sapeva. Insomma, questo era il file audio di Roberto Scarpini, che gli interisti conoscono bene. Arrivano al 349-238-6666 dei messaggi, che chiaramente saranno di juventini, che dicono c'era un pelo di fallo su quel gol. Ma leggero, Giacomo. Leggero, non era da fischiare. Non si capisce su chi, su Buffon. Io non c'entro, credo, bisogna chiedere a Di Biagioli. Credo su Buffon. 349-238-6666, siamo in diretta dal flagship store Pirelli di Milano in Corso Venezia 1. Con me, per la prima volta, devo dire, degli ospiti dal vivo che sono Francesco Toldo e Rolando. C'è una cosa che avete in comune voi due, forse non... L'altezza. No, oltre all'altezza, che è proprio il gol, quel gol lì alla Juve, perché tu hai fatto quel gol lì e Rolando ha fatto un gol nell'ultima Juve-Inter, giusto? Non è stata proprio la stessa cosa, però. Sì, non è stato il gol più bello perché mi dispiace, ma abbiamo perso, ma è sempre un gol alla Juve. Bravo, questa è proprio la filosofia dell'interista, grande. Rolando, tra l'altro tu hai fatto un gol non per caso. Prima fuori onda mi dicevi che tu hai cominciato come attaccante. Sì, già da tanto tempo che segno gol, per me è normale. No, mi piace tanto segnare, ma adesso sono difensore. Quando mi racconti, c'è un angolo sei là, ovviamente. Cerco di fare. Mi racconti come sei passato da fare attaccante a diventare un centrale di difesa? No, perché quando sono arrivato a Portogallo io ero una prima punta, ma la squadra era forte e avevo bisogno di una mezzala o un difensore. Io ho scelto di fare la mezzala, ma dopo due partite il difensore centrale ha preso un rosso e l'allenatore mi ha detto adesso tocca a te fare il difensore. E fino da oggi faccio il difensore. Cioè, non c'avevi proprio voglia, retrocedendo eri arrivati al centrocampo, sì. Non c'avevi voglia di andare. Mancava adesso essere portieri. Di andare fino in difesa. Esatto, a proposito di portieri. Invece, sta storia dei portieri che sono matti, ma non è così vera. Certo che è vera. In campo siamo fulminati, fuori dal campo persone normali. Però in campo c'è la pazzia del portiere che è solo contro tutti, alle volte anche con i difensori che te la deviano, te la toccano involontariamente. Quindi arriva un tiro sporco. E sei lì. Tu com'è che sei nato in porta? Tu che ruolo giocavi? No, io ho fatto tutti i ruoli, però mi sono reso conto che non ero pigro, non volevo correre, mi nascondevo. Quando c'era la nebbia nel nostro paese, calava la nebbia dalle paese 5, che è, ce lo ricordi? Provincia di Padova, Caselle di Selvazzano. Come no? Caselle di Selvazzano. Quanti abitanti ha? 1000. Ok. No, scherzo, no, un po' di più. E niente, mi nascondevo nell'angolino, lasciavo che la squadra corresse e poi li riprendevo 2-3 giri dopo. La pigrizia, ma è una costante dei portieri, quella di andare in porta perché non vuoi correre. Quindi è vero anche che i portieri spesso hanno i piedi buoni perché in realtà prima erano fuori. Oddio, negli anni 80 i piedini dei portieri erano un pochino carenti. In realtà adesso il portiere deve avere quello nel bagaglio suo di cioè dei cui, piedi buoni. Certo, piedi buoni. 349-238-6666, continuano ad arrivare i messaggi sul tuo gol, chiaramente Francesco, è rimasto nei cuori. Mi hanno detto che io sono vabbè, questi sono un po' di fatti miei, io sono abbonato e frequento San Siro da spettatore e insomma, lo stadio delle volte tira fuori un po' il peggio delle persone, no? In alcune situazioni, per cui tu ti ritrovi ad urlare delle cose che mai nella vita urleresti. E tra l'altro è capitato anche a te? No, a me no. Però diciamo ad amici vicino sì. Sì, anche a me è successo. Dicono tutti così. Sì. Però la cosa che uno non pensa dagli spalti, tanto non mi sentiranno mai, no? La domanda è: si sente quello che dice la gente dal pubblico? Lo che la gente dice non si sente, ma si sente quello rumore. Il rumore. Sì, ma non si capisce che dicono. Okay, no, io l'ho capito invece. In Cagliari Inter, Toldo, ritirati! E da lì ho detto, ci devo pensare. 349-238-6666, siamo in diretta dalla Pirelli di Milano. Prima di chiudere, noi dobbiamo premiare una persona, giusto Francesco? Certo. Perché siamo qui per premiare il vincitore di un concorso che si intitola Vivi un giorno da campione. La racconto io o la racconti tu esattamente come la cosa? La racconto io. C'è stato questo concorso organizzato dalla Pirelli qui di Milano e il vincitore che è qui, dov'è? No, alza la mano, so che è da qualche parte il vincitore, è lì, eccolo qua. Facciamo che prendi quella cuffia anche tu, facciamo un applauso al vincitore del concorso. Allora, mettiti la cuffia e abbassa il microfono, te la metti... Voilà, e giù il microfono, lo tiri giù verso la bocca. Grande Rolando che con un anticipo velocissimo gli tira giù il microfono. Tecnologico. È avantissimo. Lui ha vinto. Come ti chiami? Luciano, da dove arrivi, Luciano? Da Domodossa. Sei venuto apposta qui? Sì. Per ricevere il premio. Il premio consisteva nel vincitore di questo concorso di poter passare una settimana intera. Magari. Quanti giorni? Due giorni, vabbè, io la facevo un po' più grande. Diciamo che il prossimo anno facciamo tre. Mi accontento. Ok, due giorni interi. In camera con Rolando. Al ritiro di Pinzolo, che l'Inter farà, non si sa quando, non sappiamo quando lo facciamo il ritiro. Io mi sento parte della squadra, ovviamente. Dico certo, noi. Certo. Come vuoi. Come quando allo stadio, ragazzi. Che ruolo, glielo diciamo a Mazzarri se vuoi. Ne parliamo poi col mister. Passerai due giorni a Pinzolo con la squadra. E cosa farai esattamente? Non lo sappiamo esattamente cosa farai. Non lo sa nessuno. No, c'è bisogno del giardiniere? Il giardiniere, quello che fa le righe. Una cena, me l'hanno detto che ci sarà. Ci sarà una cena con i ragazzi, sì. Ok? No. E poi i ragazzi, questo diciamo è il modo in cui gli interisti chiamano i giocatori. Sì. Insomma, quello dicevo per quelli che non sono, diciamo, proprio del mestiere o dell'ambiente. Per cui tu starai con i ragazzi, giocherai anche? Ah, non so, magari provino. Un provino. Ci ricordi quanti anni hai? Pro vino, 60 anni. Che cosa fai di mestiere nella vita? Vendo dischi diamantati. Vendi, scusami? Dischi diamantati. Dischi diamantati. Sì. Per tagliare il vetro? No, per tagliare il marmo, graniti, quella cosa. Benissimo, non ne sto capendo niente proprio dal... Utensili diamantati. Ok, e cosa hai comprato per vincere questo concorso? Ho comprato una maglietta qua. No, adesso tu dovresti dire... Una maglia. No, che hai comprato un giubbotto, cioè hai speso un sacco di soldi. Sì, altre volte sì. Altre volte, certo. C'è un premio ufficiale che Francesco per Intercampus consegna o... No, per Inter, per l'Inter. Per l'Inter, scusami. Consegna al nostro vincitore oppure no? No, è così, cioè un basta. Viaggio di sola andata gli ho dato. Facciamo così. Poi non si sa per rimango. Guarda, facciamolo adesso. Francesco firma una cartolina. No, è nera, quindi non si può neanche firmare. Ma ci abbiamo già il voucher. Hai già il voucher? Allora sì, posto, sì. Un applauso. Guardalo qua, il voucher trasferito. Grazie mille. È già tutto firmato? Benissimo. Sì, te lo consegno io allora. Grazie. Quindi a luglio, pensa tutta la tua famiglia. Pensa che culo. No, tutta la tua famiglia figlia, in vacanza però. A Pinzolo. Tu e tua figlia, che non va a Formentera. Dov'è tua figlia? Ciao. Sì. Quanti anni hai? 18 anni. Tu avresti voluto andare tipo con i tuoi amici in Interrail, invece vai a Pinzolo. Pensa che roba. Grazie mille. Ti terremo con noi tutta la giornata, ma abbiamo praticamente finito. Okay, per cui grazie a tutti. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Niente, è stata veloce come una sassata. Io speravo di stare un po', diciamo, con voi ancora un po'. Invece no, la trasmissione dura solo mezz'ora. Io ringrazio Rolando che non si aspettava nemmeno di venire, invece è stato qua e ha chiacchierato con noi. In bocca al lupo per i mondiali, ovviamente. crepito, crepito. Ok, e ringraziamo Francesco Toldo che invece è venuto apposta, lo sapeva, chiacchierato. Grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, a tutta la bassa frequenza, a Davide Ciocia, Luca lì che fa finta di non interessarsi, grazie alla Pirelli che ci ha ospitato. Basta, abbiamo finito, a domani, ciao, grazie. Sono Marco Bifani, vivo a Roma e la storia di domani è la mia e racconta le sensazioni che si provano fare l'acrobazia più spinta senza essere stato brevettato pilota. Questa è la mia storia, ringrazio Matteo Caccia e io sono qui. Voi siete qui.